E allora, pochi minuti alle 11, siamo in diretta con il presidio sotto la regione. Ciao, mi senti? Sì, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora, una giornata, come dicevamo anche prima, festiva, ma che insomma non dovrebbe più di tanto ostacolare la partecipazione al presidio da parte dei compagni che da ogni parte della città dovrebbero recarsi lì a sostenere questa vertenza. In molti, crediamo, già lo abbiano fatto, e noi a te, Giulia, chiediamo innanzitutto di dirci come sono le condizioni, quali sono le condizioni dei ragazzi che sono lì, insomma, sull'impalcatura, e poi ci descrivi un po' il clima che si può vivere lì vicino al Palazzo Regionale. Sì, beh, le condizioni, soprattutto appunto l'umore, è sempre molto alto. Insomma, i ragazzi e le ragazze che stanno sopra dimostrano veramente grande carattere. Insomma, al terzo giorno a 30 metri di altezza, insomma, sulla Cristoforo Colombo, sono ancora, insomma, freschi, determinati e convinti, insomma, dell'opportunità di questa forma di protesta così radicale, così impegnativa, però anche così necessaria, nel senso che appunto, come poi stiamo vedendo in tutta Italia, questo è un potere che si chiude nei palazzi, che si chiude a gestire la crisi economica nel peggiore dei modi, quindi quello, insomma, di garantire gli assetti e i poteri forti con le casse integrazioni, in particolare per quanto riguarda la regione le casse integrazioni in deroga, insomma, che permettono ampia libertà di manovra a tutta una serie di situazioni, di imprese, eccetera, ma allo stesso tempo invece tagliano indiscriminatamente, come dicono loro, insomma, con tagli lineari su tutti i fronti, dalla sanità al diritto all'abitare, al diritto al reddito garantito, insomma, appunto, la formazione, la scuola, a 360 gradi tagli appunto lineari. È chiaro che questa prospettiva significa entrare appunto in una, in un periodo di crisi che ovviamente sarà ancora lungo, nel senso che le ricadute poi sociali appunto della crisi economica hanno poi tempi più lunghi di sviluppo, e appunto la battaglia va fatta adesso, perché se adesso si tagliano tutta una serie di diritti e tutta una serie appunto di stanziamenti e di investimenti sulla protezione sociale delle categorie che subiscono maggiormente la crisi, negli anni a venire ci troveremo completamente scoperti, e quindi saranno i precari, i disoccupati, tutti quelli che hanno bisogno dei servizi pubblici perché non possono permettersi, come altri, l'istruzione privata, la sanità privata e quant'altro, si troveranno appunto sempre più poveri, sempre più precarizzati. Quindi la battaglia è forte, i movimenti uniti crescono, la solidarietà, insomma, è tangibile, sia a partire dalla conferenza stampa assemblea che c'è stata ieri pomeriggio, che è stata molto partecipata, ma sia anche per con rispetto alle adesioni che stanno cominciando ad arrivare per il corteo e la manifestazione, insomma, che ci saranno venerdì pomeriggio alle 4, sempre qui a circondare la regione Lazio. Dunque possiamo dire che questa vertenza è stata aperta con la forza dei numeri e della partecipazione, perché insomma il corteo del 25 novembre comunque ha segnato un passo in avanti, data proprio la consistenza della mobilitazione, e questo fatto certamente non inedito, ma comunque abbastanza innovativo per la fase che stiamo attraversando, che manco a ribadirlo non è proprio delle migliori. Questo fatto però che diverse vertenze abbiano trovato una unità di fondo per rivolgersi in modo comune alla regione è certamente indicativa di una possibilità. E insomma, così come si è aperta questa vertenza col 25 novembre, allo stesso modo la si rilancia con questo corteo di venerdì. Insomma, sembra che appunto sia la mobilitazione a scadenzare questo percorso, e questo crediamo che sia importante, al di là poi delle trattative e dei margini di trattativa che ci sono, no? È chiaro, anche perché in questo momento solo la mobilitazione, solo il fatto che la mobilitazione cresca sia sugli organi di informazione, ma semplicemente come strumento poi di ricaduta sociale, nel senso che poi la gente, la società si renda conto del fatto che è impensabile, impossibile e appunto irrinunciabile, insomma, il piano dei diritti, la cancellazione del piano dei diritti appunto è una prospettiva inaccettabile, e quindi appunto questa mobilitazione, le forme radicali, l'incessante avanzare insomma delle iniziative, quindi la cadenza insomma, ormai siamo a un corteo, una manifestazione, un'iniziativa a settimana appunto, sono fondamentali per costruire quel rapporto di forza che altrimenti ci porterebbe magari sì ad avere tavoli di interlocuzione politica, perché non abbiamo mai negato di averli avuti, insomma i movimenti di lotta per la casa incontrano gli assessori competenti sulle politiche abitative, così come le vertenze sul lavoro spesso trovano insomma anche ascolto da parte di assessori competenti o quant'altro. Il problema è che poi una volta che viene ascoltato non ci sono i margini per spostare in avanti in qualche modo appunto le prospettive di questi incontri e i risultati finali di questi incontri, e un po' noi crediamo che sia anche questo il motivo per cui la Volverini si è chiusa dopo alcune dichiarazioni insomma un po' così estemporanee di critica alla nostra iniziativa, quindi sempre tutte legate al piano della sicurezza o tutte legate al piano appunto dell'opportunità di un certo tipo di forme, di manifestazioni. Nella giornata di ieri invece appunto la regione, dalla Volverini agli assessori, ai massimi rappresentanti della maggioranza, si è chiusa in un silenzio assordante, però appunto anche abbastanza indicativo di quello che è un po' la situazione dei fatti, cioè non c'è non ci sono margini di trattativa, perché nella misura in cui la giunta regionale ha presentato lunedì pomeriggio la sua proposta di bilancio, che dovrà essere approvata insomma entro dicembre, ed è una proposta di bilancio che di nuovo taglia i fondi all'edilizia popolare per spostarli sull'edilizia agevolata, quindi quella delle cooperative, quella dei grandi costruttori, taglia la legge regionale, i fondi stanziati per la legge regionale sul reddito minimo garantito, che era una prospettiva che anche in misura proprio come misura di contrasto alla crisi è fondamentale, nel senso che va a garantire quelle fasce di lavoratori precari, persone che rimangono senza lavoro, che non hanno nello strumento principe degli ammortizzatori sociali, cioè la cassa integrazione, una possibilità di accesso. E quindi anche appunto tagliare questa legge, perché da ieri è ufficiale insomma dalla lettura del bilancio che sono state tagliate la seconda e la terza annualità di finanziamenti stanziati su questa legge, così come appunto potremmo andare avanti insomma, sul piano della sanità con i tagli e le chiusure insomma di ospedali, insomma, ci possiamo immaginare che una volta che un ospedale viene chiuso per riaprirlo, per riportare un servizio insomma di prossimità rispetto alla sanità sui territori ci vorranno anni insomma, quindi un po' la situazione è questa, insomma, noi crediamo che la Volverini non si incontri non tanto per superbia politica quanto proprio perché non ha in questo momento gli strumenti, non li vuole avere ovviamente, avendo già regalato tutto quello che poteva, di cui poteva disporre ad altri tipi di interessi poi fondamentalmente. E dunque alla regione insomma stanno facendo di tutto per smantellare tutto ciò che attiene alla regolarità e pubblicità dei servizi, ai diritti sul lavoro e alla casa, insomma voi non demordete, chiaramente siamo d'accordo sul fatto che se qualche spiraglio di trattativa può venire fuori, questo può venire fuori solo dalla lotta e dalla sua capacità diciamo di sedimentarsi e di potenziarsi, di irrobustirsi. È bene però che si faccia chiarezza anche sul diciamo modo in cui poi la regione intende aprirli questi margini di trattativa, in un modo o nell'altro lo accennavi anche tu, insomma Repubblica riporta questa apertura molto timida potremmo dire della Polverini, io ti leggo il virgolettato: la mia offerta, spiega la Presidente, è sempre valida, un incontro con gli assessori, l'apertura di un tavolo tecnico, poi quando la decisione diventerà politica io non mancherò. Insomma sono parole certamente che se lette così sembrano in un certo senso a contenere dei margini, in realtà poi ieri insomma non si è visto nessuno, tu continui a confermarci che diciamo fino adesso la porta per così dire è sbarrata, no? Sì, assolutamente, ci arrivano anche voci diciamo dal comune di Roma, che quindi insomma è abbastanza contiguo politicamente alla formazione di governo regionale, appunto voci rispetto alle quali questa giunta è combattuta tra appunto dare risposte a una mobilitazione che comunque sta portando un grandissimo danno sia di immagine che poi materiale, insomma, perché poi qui è pieno di striscioni, insomma, dalla Cristoforo Colombo si vedono benissimo i striscioni che bocciano la Polverini, che criticano le sue politiche, insomma, pieno di bandiere sindacali, il parcheggio dei dipendenti della regione praticamente è per metà occupato, quindi insomma la mobilitazione non è assolutamente invisibile, anzi è molto pesante. Noi crediamo appunto che anche nel tempo queste cose si spostano, nel senso che per questo appunto la mobilitazione ha assunto le caratteristiche di una mobilitazione a oltranza, perché appunto spostare determinati equilibri non è una cosa che avviene in un giorno, soprattutto se li vuoi spostare insomma per ottenere degli obiettivi concreti. Certamente. Senti, un'ultima cosa ti chiedo, Giulia, e cioè se perché mi sembra che già ce ne sono state nei giorni scorsi di reazioni positive da parte di chi in regione ci lavora da dipendente pubblico, diciamo, se continuano questo tipo di reazioni alla vostra protesta. Sì, in linea di massima sicuramente sono intervenuti anche alla conferenza stampa i sindacati dei lavoratori, ma anche dei dirigenti della regione Lazio a portare la loro solidarietà. Abbiamo appreso che è stato aperto con delibera di giunta un presidio di polizia all'interno della regione Lazio, rispetto al quale appunto i dipendenti e i dirigenti hanno espresso la loro contrarietà, nel senso che non interpretano in questo modo un'istituzione. Cioè, è chiaro che la regione Lazio non può diventare appunto un castello con intorno il fossato, i ponti elevatoi per staccarsi e proteggersi dalla società che in teoria dovrebbe invece appunto ascoltare. Quindi questa deriva potremmo dire autoritaria, ma fondamentalmente anche che dimostra in qualche modo la loro impotenza, è una deriva che non è vista di buon occhio da nessuno di quelli che lavorano qui alla regione. I gesti di solidarietà ci stanno, sono ovviamente anche piccole cose, però insomma anche semplicemente la condivisione del parcheggio e degli spazi, c'è stata una grande tolleranza, insomma non abbiamo sicuramente subito nessun tipo di provocazione dai lavoratori della regione, insomma. D'accordo, allora credo sia tutto, sicuramente ti risentiremo, comunque sentiremo voci dal presidio per il GR serale. Ricordiamoci però, anzi ti ricordo, per qualsiasi novità di qui invece alle prossime ore teneteci informati. Certo, grazie. D'accordo, ciao ciao. Buongiorno. Ma se ci avessi un brivido